Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio. È difficile dare un senso logico a una giornata come quella appena trascorsa. Innanzitutto perché sullo sfondo resta la tragedia di Simoncelli che toglie significato a tutto il resto. Ma anche perché con un po' mettendoci un po' di fatica non è semplice trovare una logica sul primato assoluto dell'Udinese, la squadra che, lo sapete, più ha incassato nell'ultimo mercato eppure continua a non perdere un colpo tra campionato e anche Europa League. Udinese, Lazio, Juventus, Cagliari, questo è l'ordine d'arrivo momentaneo, il traguardo volante della settima giornata, ciascuna squadra staccata di un punto dall'altra, ed è una classifica impossibile da indovinare ai tempi dei pronostici. Non c'è neanche traccia di logica nel Milan, che prende 3 gol a Lecce nel primo tempo e poi gliene restituisce 4 nella ripresa, e delle due imprese mi pare la prima la più sorprendente in assoluto, cioè quella di prenderli 3 gol più che di farne 4. Ma poi in altri risultati ancora, in Italia e all'estero, dove ha perso il Bayern per esempio dopo mesi, dove Real ha sorpassato il Barcellona anche per via, non solo perché sta giocando benissimo, ma anche per via di un rigore sbagliato niente meno che da Messi, dove soprattutto mi pare che Mancini e Balotelli abbiano trovato il modo di entrare nella storia del calcio inglese per quel 6-1 incredibile del City a Old Trafford stamattina. Alcuni quotidiani hanno titolato Six and the City, non era poi nemmeno impossibile come giochino di parole, però insomma, rende l'idea di un evento epocale. Qualche numero italiano suggerito come sempre da Fianco Piantanida, ma non solo italiano, perché per esempio l'Udinese, restiamo in Friuli, che attualmente è la capitale del calcio italiano. L'Udinese ha la miglior difesa in Europa in assoluto, perché ha subito un solo gol in 7 partite e guida questo terzetto di sorprese europee che comprende il Levante, che è tuttora primo nella Liga, avendo vinto 3-0 niente meno che sul campo del Villarreal, e il Newcastle in Inghilterra, che è soltanto quarto ma è vicino alla vetta e ha, esattamente come l'Udinese e il Levante, la miglior difesa dei rispettivi campionati. L'Udinese è in testa da sola dopo 403 giornate di campionato. Era successo alla quinta del 2000-2001 con De Canio in panchina. Meglio di un gol subito in 7 giornate lo fece solo il Milan di Capello nel 93-94, quando non aveva subito ancora nessuno. Attenzione alla Lazio, perché è la terza vittoria di fila in trasferta, cosa già un filotto già centrato lo scorso anno, e perché soprattutto nelle ultime 5 giornate, derby compreso, la squadra di Rea ha fatto 13 punti su 15. Come sempre c'è spazio al lunedì per i vostri interventi, per le vostre opinioni, ma anche per sollecitare argomenti ulteriori, spunti di ogni genere. Mi pare giusto aprire il programma di oggi continuando sul versante udinese, sentendo da Radio Anch'io Sport di Rai 1 stamattina un'opinione di Fabio Capello su questa Udinese, possibilmente forse addirittura a scudetto. È una squadra che darà fastidio, che è lungo il percorso e ci vuole una certa mentalità. Devo dire che potrebbe essere la squadra pericolosa per tutti quanti, e soprattutto direi che c'è la tranquillità dalla parte sua di lavorare con un pubblico esigente, ma però rispetto al lavoro di coloro che si impegnano per ottenere risultati. Questo è molto importante, non è una società dove si pensa a voli pindarici, ma una società molto concreta. Vero, controprova molto significativa mercoledì sera per l'Udinese, perché il turno infrasettimanale di campionato, che si apre domani con Juventus-Fiorentina e si completa poi giovedì sera con un altro posticipo, ha il clou assoluto di questo turno, dell'ottavo, ha il clou la sera di mercoledì a San Paolo di Napoli con Napoli-Udinese e ovviamente, se l'Udinese passa quello scoglio, passa indenne, ha qualche ragione in più, non dico per illudersi, ma insomma per continuare il sogno, se non altro, e il Napoli invece ha un'occasione rara per cercare di ridurre le distanze dalla vetta, che passo dopo passo un po' si sono significativamente allungate, anche se poi per Milan, Roma e Napoli stiamo parlando pur sempre di 4 punti dalla testa. Qualcuno fa notare il contrappasso dantesco tra i 3 gol nel primo tempo e quelli nel secondo, i 4 nel secondo, o 3 all'ora per Istanbul. Beh, è un rimando evidente, trattandosi del Milan, ma insomma, risultati di questo genere, rimonte di questo genere ce n'erano state anche lo scorso anno, perché per esempio il Genoa rimontò da 0-3 a 4-3 con la Roma in casa e fu la partita delle dimissioni di Ranieri. Il Milan non era mai riuscito invece a rimontare 3 gol e vincere una partita in A. Pensate che sotto 0-3 era successo soltanto nel 58 che fosse arrivato al 3-3 con la Roma all'Olimpico, e quel giorno segnò un gol anche Nils Liedholm. Ma a proposito di dati su cui riflettere in prospettiva, il Milan ha già subito 11 gol in 7 giornate e lo scorso anno ne aveva presi 24 nell'intero campionato, quindi insomma, questo mi sembra un parametro da tenere presente, anche se è vero che sembra esserci quest'anno una fragilità un pochino più diffusa, no? E una mancanza di squadre leader che si vede, con l'eccezione per l'appunto dell'Udinese. E questa notizia che arriva da Ginevra mi sembra così che possa aggiungere uno spunto di riflessione per la giornata. La leggo integralmente, arriva dall'Ansa stamane. Circa 700 tifosi del Basilea, sbarcati a Zurigo per assistere all'incontro con la squadra locale, cioè Zurigo-Basilea, hanno deciso di riprendere il treno prima del fischio d'inizio perché non avrebbero potuto sparare i petardi e i fuochi d'artificio che si erano portati dietro. Lo ha reso noto la polizia, che ha il portavoce della polizia appunto ha dichiarato: alle 14.45 è giunto un treno speciale con 800 tifosi del Basilea, alcuni supporter già alla stazione hanno acceso materiale pirotecnico, e a quel punto i tifosi sono stati raggruppati dalle forze di sicurezza. È stato spiegato loro che o mollavano tutto il loro armamentario, maschere comprese, perché alcuni erano mascherati, oppure lo stadio non l'avrebbero raggiunto. Lunga discussione, 700 tifosi circa su 800 hanno deciso di tornare indietro e sono ripartiti con un treno speciale alle 15.45 senza vedere la partita e senza assistere alla vittoria della loro squadra, che ha vinto per l'appunto 1-0 sul campo dello Zurigo. Zurigo-Basilea era una partita a rischio per via di scontri avvenuti a inizio ottobre tra Zurigo e Grasshopper, e da allora la città della Svizzera tedesca aveva annunciato e poi evidentemente praticato una politica di tolleranza zero. Vedete voi se trovate qualche analogia tra gli annunci e la pratica, poi, e la messa in pratica di tolleranza zero tra la Svizzera e l'Italia. Vedete voi se dei supporter o presunti tali che rinunciano a veder giocare e poi anche vincere la loro squadra per via che non possono sperare i petardi possono chiamarsi tifosi, o se invece sono soltanto alla ricerca, come dire, di emozioni forti in Svizzera come altrove. Il treno è stato distrutto? Domanda un ascoltatore, riferendosi evidentemente al treno che ha riportato a casa i tifosi del Basilea. L'agenzia non lo dice, caro amico ascoltatore, ma mi sentirei di escluderlo che sia stato anche soltanto graffiato, perché per l'appunto sono altre latitudini. Due notizie che riguardano una riguarda Gargano, che ieri ha avuto un problema muscolare e per questo è uscito, mi pare, il centrocampista del Napoli. Ne avrà per almeno 3-4 settimane per una distrazione di primo grado. Molto più seria la prognosi invece per Gattuso, che continua a non riuscire a giocare, che stamattina ha tenuto a Milanello una conferenza stampa, tra l'altro questa conferenza stampa tenendo davanti a sé una maglia del Milan con intitolata Simoncelli, con la scritta sulla schiena Simoncelli, che era un grande tifoso rossonero. Gattuso in sintesi ha raccontato di avere quest'occhio sinistro strabico e ha riassunto la sua piccola odissea. Ho un problema al nervo dell'occhio, sono 50 giorni che sono fermo e ci vogliono ancora 4 mesi per poi pensare di operarmi. Questa è la diagnosi, ma soprattutto la prognosi molto pesante per il giocatore del Milan. C'è in linea Roberto, chiamato da Milano, buongiorno. Sì, pronto? Dica. Volevo un suo parere su Lecce-Milan, visto dalla parte della squadra giallorossa. dalla parte della squadra giallorossa che quindi dalla parte della squadra del Lecce. Il mio parere è che il Lecce ha smarrito evidentemente nell'intervallo qualcosa di prezioso. Va a sapere se è la concentrazione, la rabbia, la grinta, soprattutto direi il senso di inferiorità che una squadra provinciale deve avere anche quando contro la prima della classe, perlomeno la prima della classe nel nostro campionato, che non può non avere nell'affrontarla in qualsiasi momento. Se si sbaglia qualcuno della squadra a pensare che la pratica è risolta, poi capita che prendi tre gol in 18 minuti e ovviamente poi le cose in quelle giornate così strane i fattori si moltiplicano, per cui quello che nel primo tempo al Milan era girato anche particolarmente male, faccio l'esempio di quel rigore inesistente, no? Fischiato ad Abbiati contro Corvia, poi te lo ritrovi nel secondo tempo perché c'è uno dei gol di Boateng è irregolare, per fuorigioco non attivo, attivissimo di Aquilani, ma insomma in ogni caso questo poi accade e non è quello che incide dal punto di vista dei giallorossi, come lei mi ha sollecitato, incide il fatto che evidentemente hai perso le distanze, hai perso il senso delle proporzioni e ti basta perderlo per pochi minuti, perché poi già è difficile gestire il 3-1 quando la partita pensi di averla chiusa, ma il 3-2 genera panico istantaneamente. Daniele Udine, buongiorno. Buongiorno. Sì. Niente, soltanto per rimarcare un po' il fatto dell'Udinese, anche perché è vero quello che dite, come altrettanto vero che è prima anche in Europa, non avendo grossi nomi, lasciando perdere Di Natale, sta sviluppando un gioco con riserve, buono, bello, una difesa importante con un allenatore importante. Certo, Daniele, sì, difatti, ma son tutte cose di cui da un po' di tempo stiamo effettivamente parlando, ma con grande piacere, ed è giusto continuare a segnalarlo, anche a rimarcarlo. Insomma, io credo che l'Udinese abbia davanti a sé, così per andare un pochino avanti, no, rispetto all'argomento, al taglio che lei propone, io penso che se fossi nei panni di Pozzo o comunque dei proprietari, lascerei passare 2-3 giornate, non tante di più. Questa settimana in cui se ne giocano due importanti e poi magari, non so, un altro paio. E poi proverei a vedere dove sono. A quel punto, ricordandomi che ho in scarsella, no? Come si dice più o meno a quelle parti, che ho messo da parte una cinquantina di milioni di euro, forse di più, come saldo attivo del mercato estivo, io forse un pensierino di provare ad andare da Guidolin a dire: ma senti un po', c'è un attaccante che potrebbe, non so, che potrebbe servire come alternativa di Natale, come partner di Natale ad alto livello, eccetera, che insomma, col quale potremmo fare magari un pensierino in più. Io credo che sia una riflessione che si potrebbe anche fare a quel punto, no? Massimo Biella, buongiorno. Sì, buongiorno, volevo chiedergli cortesemente una sua opinione sull'entrata in campo al 90° di un certo Del Piero Alessandro, che a mio parere poteva tranquillamente essere messo in campo un pochettino prima, diciamo anche verso il 70, vista la prestazione di Vucinic, non è che si potesse aspettare il 90° con tutti i suoi grandissimi atteggiamenti che comunque il signor Del Piero dimostra in panchina, partecipando emotivamente anche all'incontro. E una seconda cosa volevo chiedergli: ma secondo lei il signor Conte ha ormai fossilizzato il binomio Vucinic-Matri in attacco, dimenticandosi totalmente di Quagliarella, o sarà momentanea la... Questo non ho davvero idea. So che l'altra sera, insomma, vedendo la partita, seguendola con una certa attenzione e con un progressivo sbalordimento, Insomma, io ho notato, a parte Vucinic, ho notato un ingresso di Krasic prima di Del Piero. Ora, io capisco che ci siano da rispettare dei moduli, degli spartiti tattici, dei principi, okay, però insomma, il Krasic di questo periodo, non soltanto, prima ancora dell'altra sera, è vagamente impresentabile, direi, no? Poi il fatto che da un suo errore sia, ma da un suo balbettio, direi, sia nata, poi sia partita l'azione del 2-2, è soltanto una conferma in più, una prova del 9. Ma mi pare che questo trattamento di fine rapporto a Del Piero stia diventando un tantinello grottesco, perché poi la cosa che più mi ha stupito l'altra sera non è stato farlo riscaldare per un tempo intero, è un professionista, le situazioni tattiche del corso della partita si evolvono, sul più bello che Conte pensava di farlo entrare la Juve è tornata in vantaggio, poi c'è stato il problema di gestire, c'è stato questo cambio un po' fifone, direi, no? Di pazienza per cosa che credo sia stato è uno di quei segnali per gli avversari, guardate che ce la possiamo ancora giocare, insomma ci sono tanti tutti questi errori, ma quando a due minuti dalla fine, no? più recupero, ho visto che dopo 40 minuti di riscaldamento non erano bastati, ma ci voleva ancora anche l'assistente di Conte con la lavagna elettronica che doveva spiegare a Del Piero nel dettaglio cosa doveva fare, no? Stiamo parlando di uno che, con tutto rispetto, ma insomma, sì, qualche partita di calcio l'avrà anche vista, l'avrà anche cosa, ma stiamo parlando di uno che si sta rivolgendo a un altro che invece qualche centinaio di partite di calcio ad alto livello le ha giocate e forse sul 2-2 ha un'idea lui, no? Di dove mettersi in campo e di come giocarsela senza che ci sia uno che si mette lì con la lavagna elettronica. Io mi chiedo, immagino che Del Piero abbia dei peccati da scontare nell'ambiente della Juventus, perché sennò un trattamento come questo sinceramente non faccio fatica ad immaginarmelo, ecco, non solo a vederlo praticato. Davide ha chiamato da Verona, buongiorno. Sì, buongiorno, grazie, è un piacere parlare con lei, scusa l'emozione di parlare alla radio. No, volevo ricollegarmi al discorso del campionato svizzero, chiederle un parere su quanto è successo in Champions a Napoli, e il fatto che oltre ai innumerevoli scopi di ordigni anche all'interno dello stadio ci siano stati 4 accoltellamenti all'esterno dello stadio, una cosa che è passata a parte un graffietto della Gazzetta, ma in maniera sommessa su tutti i quotidiani sportivi nazionali. Non le sembra ormai insopportabile che ci sia questo tipo di atteggiamento ormai anche in Europa, che ci sia una dicotomia assoluta da come vengono trattati i tifosi di alcune squadre appunto del nord, anche della mia, parte Verona, parte Hellas, rispetto a molte squadre del sud? Le volevo solo dire, venerdì, se lei ha visto il posticipo, l'anticipo, scusi, del Verona con la nocerina, quello che è successo, grazie, nello stadio è stata una cosa che possono raccontare solamente chi era presente. Hanno divelto tutti i bagni, quello che ne è rimasto ormai del settore ospiti, e tirando qualsiasi cosa contro di noi che eravamo nelle tribune. Sotto, noi saremmo rimasti nello stadio per dei giorni se mai in maniera assolutamente assurda avessimo fatto una cosa di questo genere. Grazie. Questo è il vittimismo tipico di una tifoseria a sua volta con dei non pochi peccati da, no, sulla coscienza, e il discorso iniziale invece lo trovo un pochino più serio, un pochino più condivisibile. Ne parlavamo già qualche giorno fa, petardi, fumogeni, non soltanto a Napoli, persino a Basilea, e non proprio nella partita di Coppa, di Champions, di mercoledì, e vede che questi del Basilea, poi cosa è successo? È successo che gli svizzeri hanno preso buona, prima ancora l'UEFA, che probabilmente, mi auguro almeno, che andrà con la mano pesante nei confronti della tifoseria del Basilea, del Napoli e di tutti quelli che si sono macchiati di questo genere di idiozia o di pericolosità, eccetera. È successo che il Basilea, le autorità svizzere hanno preso buona nota, hanno detto questi hanno sparato le loro cose mercoledì, va bene, dove vanno domenica? Vanno a giocare a Zurigo, perfetto, proviamo a dare un'occhiata allo stadio. È successo quello che abbiamo detto, in Italia non succede, non accadrà mai, perlomeno non accade adesso, non ora, non adesso. Le ragioni più o meno le sappiamo, se anche non le sapessimo non facciamo molta fatica a immaginarle, soluzioni all'orizzonte non se ne vedono. L'importante è non cominciare a dire io sì, ho una brutta fama, però quegli altri si comportano peggio ancora di me. Io credo che ciascuno debba pensare a come comportarsi, il problema è che dovrebbe essere lo Stato, prima di tutti, a sapere come comportarsi a sua volta nei confronti di tutti, senza fare distinzioni di latitudini o di simpatie o di precedenti o di brutte fame turbolente. Vediamo di non dimenticare la provincia, anche se Udine non risulta essere metropoli. Per provincia intendo, non so, per esempio Cagliari, che è quarta in classifica, che sta facendo a sua volta un signor campionato. Un commento a Cagliari Napoli del relatore del Cagliari, Ficcadenti. Abbiamo dimostrato di creare tante occasioni, abbiamo preso due pali, abbiamo creato adesso qui la prima parte, è chiaro che è stata i primi 15 minuti difficili perché il Napoli si è fatto subito avanti e abbiamo sofferto, ma non è una questione di attacco, oggi abbiamo fatto una grande partita, ripeto, sotto tutti i punti di vista, contro una squadra che è veramente forte a livello individuale, hanno tanti giocatori e ti possono mettere in difficoltà perché non ti danno punti di riferimento, invece noi siamo stati sempre corti e quindi in questo momento devo dire che va bene così. Va bene anche per il Siena, per come è ripartito dopo la promozione, guidato da Sannino, allenatore debuttante in Serie A, che sentiamo a sua volta. Abbiamo vinto una partita difficile e sono felice perché si proietta in una settimana un po' particolare con tre partite. Possiamo partire per Novara con un po' di serenità e poter lavorare. Andiamo a giocarci questa partita che si preannuncia molto difficile perché ha perso a Udine. Però se i ragazzi hanno questa intensità, questa voglia di soffrire, secondo me, possiamo andarcela a giocare e poi vediamo. La raucedine a fine partita non è inedita, ma insomma mi sembra che quest'anno più di altri sia un connotato abbastanza comune. Massimo ha chiamato da Livorno, buongiorno. Buongiorno. Allora, condivido in pieno il suo intervento su Del Piero, l'ultimo intervento che ha fatto. E da buon juventino la cosa che mi rattrista è il comportamento della società, che secondo me è la testa della situazione, nei confronti dell'uomo, del giocatore e del campione, perché questo è una persona che ha fatto vincere tanto, ma non deve andare in campo perché ha fatto vincere, ma deve andare in campo perché se lo merita durante gli allenamenti e tutto. Ma secondo il mio punto di vista non viene, secondo me, valutato nella giusta maniera, purché abbia dato il che ha dato e non so come mai, e questo mi rattrista tantissimo, questa situazione. Non lo so, io non ho molto da aggiungere alla disamina di prima, le ripeto, io non ho niente di sentimentale da spartire né con la società né con il giocatore, però vedendolo da fuori e vedendolo però da innamorato del calcio, io capisco che le vecchie bandiere arriva un momento in cui rappresentano un problema o anche un problema, no? E non c'è dubbio che Del Piero lo abbia rappresentato, forse più in passato che non oggi. C'è stata questa decisione abbastanza traumatica o comunque anomala, diciamo, no? Di prolungamento di contratto, perché Del Piero ha forzato la situazione lo scorso anno, questo non è piaciuto ad Agnelli, va tutto bene. Poi c'è stata questa sortita che tutti gli analisti di comunicazione, indipendentemente dalla loro appartenenza o schieramento di colori sociali, la scorsa settimana hanno definito tra l'incomprensibile e l'autolesionista, e mi riferisco a quella alla sortita di Agnelli nei confronti di Del Piero, ricordo di notifica, non dico di sfratto ma quasi, e da allora è chiaro che perché è stato un errore grave quello del presidente, ma perché da allora è ovvio che c'è amplificazione su ogni episodio, non dico avvenimento ma persino episodio riguardo Del Piero. Caso ha voluto che, ripeto, sostituzioni tattiche, che cambiamento continuo di punteggio la sera di sabato abbia proposto subito, no, una casistica un po' un po' complessa, no? Riguardante Del Piero, ed è ovvio che ci sia il massimo dell'attenzione. Io so, mi spingerei persino a dire che senza santificare Del Piero e senza demonizzare e senza voler attribuire torti o ragioni, però mi sembra un dato oggettivo questo, che Del Piero ha dimostrato in questi 20 anni circa di essere un grande giocatore, ma io credo che Agnelli debba ancora dimostrare di essere un grande presidente. Mario da Torino, buongiorno. Buongiorno. Dica. Volevo chiedergli solo una domanda. Adesso mi ha letto nel pensiero perché ha parlato del Cagliari. Io sono un tifoso del Cagliari. Perché ha parlato del Cagliari prima, 2 minuti fa. Volevo chiedergli solo, prima ha parlato che si è fatto male Gargano, nel giocatore del Napoli, e poi ha parlato di Gattuso. Però non ha accennato che si è fatto male, anche si è rotto il pallone della gamba destra a Story. Sì, cioè, è stata una dimenticanza sua o... No, è stato che non c'è nessun aggiornamento. Queste erano due notizie che sono arrivate adesso. Io non stavo facendo l'inventario degli infortunati di ieri, stavo dicendo che due notizie fresche appena arrivate erano la prognosi per Gargano 3-4 settimane e la prognosi per Gattuso, invece da lui stesso annunciata, stiamo parlando di mesi più un intervento chirurgico. Astori era purtroppo una diagnosi già conclusa ieri, perché ha riportato la frattura del perone, ne avrà nella migliore delle ipotesi per 3 mesi. Credo che l'arbitro, non avendo nemmeno ammonito Lavezzi per quel brutto, per non dire pessimo intervento su Astori, si qualifichi da solo da un punto di vista tecnico, perché sarà anche vero che Braschi gli raccomanda di lasciar correre, di lasciar giocare, di fischiare il meno possibile, però gli interventi di quella violenza, come quello di Lavezzi ieri su Astori, non voleva rompergli il perone, su questo siamo d'accordo tutti, però intanto così è andata. Il fatto che nemmeno sia stato ammonito non mi è molto molto piaciuto. Mario, grazie. Andiamo in provincia di Milano, a Giovanni, buongiorno. Sì, pronto, buongiorno. Dica. Io volevo una sua opinione in merito alla difesa della Juventus, ovvero mi chiedo se i gol presi siano imputabili alla tecnica dei singoli, apro parentesi, secondo me Chiellini è un buon giocatore, Bonucci e Barzagli sono dei giocatori medi, o se fosse un problema di schemi, perché apro di nuovo, chiudo la parentesi, ieri sono stati presi due gol, sabato sono stati presi due gol su cambi di gioco in cui i centrali guardavano le farfalle e i terzini a me insegnavano di fare le diagonali, invece non arrivava mai nessuno. Una sua opinione in merito, grazie mille. La stessa sua, e corredata dal fatto che mi sto chiedendo dall'estate come mai la Juventus, che pure ha molto speso su quest'ultimo mercato, non abbia speso solo dalla cintura in su e non abbia cercato invece di intervenire sul reparto che lo scorso anno era stato il vero tallone d'Achille della squadra, per i risultati, per le rimonte subite, no? Soprattutto in casa. Mi pare che la storia si stia un po' ripetendo, perché dopo addirittura col Bologna prima, ma adesso anche col Genoa, e dovendo poi anche alla fine non lamentarsi per come è andata, perché era una partita che negli ultimi minuti la Juventus poteva non più vincere, ma poteva anche rischiare di perdere. Angelo, Roma, buongiorno. Buon pomeriggio, volevo sapere per cortesia cosa ne pensa della Lazio, in particolare riferimento al centrocampo, perché pare che la difesa l'hanno un po' sistemata, e poi voleva sapere da lei che cosa ne pensa di Xana, secondo lei è un giocatore di calcio oppure no? Dunque, perché era un supplemento di indagine per l'ultima domanda. Per la prima le dirò che ho trovato interessante un'osservazione del mio amico Mura stamane su Repubblica, quando dice che la suggestione di Bagnoli, cioè del Verona 85, che in molti rivedono nell'Udinese di Guidolin, invece potrebbe essere nella Lazio di Reia, indipendentemente poi da come vada a finire, ma per come giocano queste squadre, nel senso che effettivamente anche a me sembra di vedere in parte, per quel che ci può essere di simile o comunque di richiamo, di evocativo, per quel che ci può essere a distanza di così tanti anni, ma stiamo parlando di più di un quarto di secolo rispetto all'85 e a quel titolo del Verona. Però insomma, forse è la Lazio, direi, che somiglia di più a quel Verona di allora. Il giocatore che dice lei, io l'ho visto menare una volta, non, a occhio, no? mi sembra uno non, cioè, i piedi morbidi, però ho un ricordo molto molto vago, perché l'ho visto per non molto tempo. Mi sembra uno che morbidezza di piedi pochi, vocazione a randellare discreta, invece, e Reia continua a preferirgli Lulic, no? Mi pare anche ieri come terzino, mi sembra con buon profitto, e anche questo qualcosa vorrà dire. Sentiamo la data, che cosa ha trovato Nicola Filippone per il 24 ottobre. Sembra ieri. 24 ottobre 1973. Andata dei sedicesimi di Coppa UEFA. La Lazio di Maestrelli viene letteralmente travolta sul campo dell'Ipswich Town. La formazione inglese, allenata da Bobby Robson, si impone per 4-0, con 4 reti realizzate dall'attaccante Trevor Wymark. Al ritorno i biancocelesti tentano un'improbabile rimonta e ci vanno vicini, trascinati da Chinaglia, che va a segno 4 volte. Il match terminerà però 4-2, con una spiacevole coda di tafferugli in campo e fuori. Eliminata dalla UEFA, la Lazio potrà così concentrarsi sul campionato. Riuscirà a conquistare il primo scudetto della sua storia. Un precedente certamente ben augurante, anche se la Lazio al momento in Europa League invece è tuttora in corso. Il 24 ottobre era anche il compleanno, 24 ottobre 40, di quel grande giocatore che è stato Giacomo Bulgarelli, bandiera, a proposito di bandiere, bandiera vera del Bologna. Fausto ha chiamato la Lodi, buongiorno. Sì, buongiorno signor Garanzini. Io volevo solo fare i complimenti a Roberto Mancini per come sta, diciamo, sfruttando la sua avventura inglese. Ieri ho visto giocare il Manchester e veramente c'è da fargli i complimenti. Non ricordo un'altra occasione nella quale Ferguson abbia preso 6 gol, e dopo 30 anni diciamo che si ricorderà questa data. Anche più tempo, perché credo che questo sia stato un evento storico. Ferguson ha ammesso che è la sconfitta più dura della sua carriera, e quindi questo va a maggior merito di Mancini. Però Fausto, senza dimenticare che la lista della spesa su cui quest'anno è stato accontentato Mancini non è di quelle che capitano tutti i giorni, Indubbiamente, però le squadre di Mancini ho sempre notato che danno l'idea di migliorare col tempo, mentre altre invece si pensa che da un momento all'altro possano crollare o essere arrivate alla fine di un ciclo. Questo non saprei, può darsi che lei abbia ragione. Due fatti sono indiscutibili. Il primo è che il Manchester City sta in campionato, non tanto in Europa, sta facendo non bene ma benissimo, e la vittoria di ieri è storica, e Mancini, se anche da qua in avanti le cose dovessero andare diversamente, cosa che non gli auguro evidentemente, avrebbe comunque già un posto nella storia del calcio inglese, lui più di Balotelli, ma anche Balotelli. Questo è un dato, una cosa indiscutibile. L'altra cosa indiscutibile è che trovare questi sceicchi che a parer mio inquinano il mondo del calcio, ma questo è tutto un altro paio di maniche, tutto un altro discorso, che hanno voglia di spendere 100, 150, 200 milioni l'anno per andare a comprare quello che c'è di meglio sul mercato, beh, insomma, non è che si trovano tutte le mattine, ed è stato fortunato Mancini a trovarli, è stato bravo e fortunato. Claudio Roma, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Una dichiarazione di stamattina su un programma concorrente di Fabio Capello in diretta, che diceva a proposito di Del Piero e Andrea Agnelli: l'anno scorso ha parlato in anticipo Del Piero, quest'anno ha parlato in anticipo il presidente. Ecco, era una deduzione più o meno. Beh, carina. Carina, sì, perché insomma denota che Fabio Capello insomma non ci dimentica, ecco, ci guarda bene da vicino. Carina anche perché è vera. Poi qualche differenza c'è, perché lo scorso anno mi pare che Del Piero parlò in largo anticipo, ma era febbraio. Sì, sempre per le finezze. Così. Sì. Tra un giocatore che parla a febbraio e un presidente che parla a ottobre, insomma, io mi tengo sempre ancora il giocatore, anche in questa particolare classifica. Però è indubbio che sia. Che entrambi siano stati dei peccati d'anticipo, ma abbastanza inspiegabili, perché poi chissà, magari un giorno sì, se ne saprà di più. Ma soltanto un mese fa mi pare c'è stata o poco più questa cerimonia inaugurale in cui Del Piero ha avuto l'onore della panchina accanto a Boniperti. Che cosa sia successo in questo mese per cui è difficile dirlo. È difficile dirlo e in fondo sono poi anche problemi loro, ma rischiano di essere problemi che poi secondo me lo si è già un po' visto l'altra sera, che si ripercuotono sulla squadra e che rischiano magari di rendere ancora più aziendalista un allenatore che già forse lo è persino troppo, ma questo si vedrà col tempo. Roberto, Udine, buongiorno. Buongiorno a lei, ovviamente. Senta, a proposito di Agnelli, io dubito che sia uno sprovveduto, perché insomma rappresenta un grande gruppo italiano, bla bla bla bla. Ora, noi stiamo parlando di Del Piero, della sua uscita, però non sappiamo cos'altro si sono detti in quell'assemblea e qual è il bilancio della Juventus e qual è poi il problema magari legato a delle infrastrutture, dello stadio, insomma. Può essere servito in questo momento come distrazione, lei mi insegna, nel campo della comunicazione, che bisogna spostare l'attenzione su un altro argomento. Però la capisco, però allora bisogna essere strateghi migliori, cioè nel senso che se è un problema di comunicazione, di spostare l'attenzione da un problema a un altro... In genere si fa senza evitando di crearselo un altro problema, cioè sottolineando qualche altro aspetto. Crearselo non mi sembra comunque una buona strategia. Claudio Pescara, buongiorno. Buongiorno a tutti, complimenti per la trasmissione innanzitutto. Senti, io volevo sapere un suo parere di un allenatore che sta facendo molto a Pescara e con il suo 4-3-3, nonostante un gioco molto offensivo, La mia squadra ha 27 gol in attivo, terza in classifica, e comunque spero che possa andare in Serie A. L'allenatore in questione forse le avrà già capito, è Zeman. Sì, come sarebbe nonostante il suo gioco offensivo fa 27 gol, il suo gioco offensivo poi tende a fare parecchi gol, però a riceverne altrettanti. Però ecco, diciamo, forse probabilmente il suo schema è un po' cambiato, perché visto che la nostra difesa si è un po' appesantita, tra virgolette, cioè ha corretto quegli errori che forse faceva prima nelle altre squadre, e quindi sta facendo bene, sta facendo bene. Poi i conti si fanno a un certo punto, ma d'altra parte sta facendo non bene, secondo me sta facendo molto bene, e di questo gli va certamente dato atto. Poi ripeto, i conti si fanno un pochino più avanti, il campionato di B è appena partito, credo che stia per arrivare alla decima giornata, o forse quella che si è appena giocata è la decima giornata, cioè siamo a un quarto del cammino. Il Pescara non è certamente partito per vincere il campionato o per salire in A, e quindi con quella classifica, col terzo posto e con quella brillantezza di gioco, Zeman non sta facendo bene, sta facendo davvero molto bene. Grazie Claudio per averlo ricordato, grazie a Roberto Scaltritti in regia, Franco Piattanida in redazione, buon pomeriggio.